l'ospite del giorno. Solo quelli con grande personalità e forte carattere. Forte carattere. Possono sottoporsi alle menti malate dello Zoo di 105. Solo i più coraggiosi. Solo i più coraggiosi. Hanno accettato di rispondere alle loro domande fuori luogo. Lo zoo è senza limiti, senza dignità, senza una morale e senza il buon senso. Buon senso. Ma solo chi è stato loro ospite potrà vantarsi di aver veramente sentito tutto. Vi presentiamo l'ospite del giorno dello Zoo di 105. Ladies and gentlemen, è con noi il nostro idolo, il re del rock italiano, Mr. Pino Scotto! Rock and roll, baby! Ciao Pino! Lasciami barboni a quei quali. Vieni qua, bastardo! Ve lo do io biscotto a voi, ve lo do io! Vieni per qua. Il culo! No! C'è un ticchettio alle nostre spalle, a cosa serve? Cos'è sto ticchettio? No, è la bomba che ci ha lasciato in regia. Certo. Come stai, Pinone? Bene, bene. Hai visto che c'è il tuo sosia dall'altra parte? Ma l'ho visto, allucinante, c'è i capelli più belli dei miei. Cioè. E i suoi sono veri. La mia è una parrucca invece. Parlo pulito, bello. Guardalo Pino Biscotto, sono io. Ciao Biscotto, come stai? Tutto a posto. Oggi mi senti particolarmente rocco, che ho visto. Sì, il mio comunque sosia. se fai l'imitazione mia, devi fare l'accento napoletano, non pugliese. Tu sei napoletano, io sono napoletano. Sì. Sempre più pugliese però. No, napoletano. Cioè, ha già visto fare Pulcinella nel 31? No, sto scherzando. No, nel 25. Oh, ragazzi, sabato questo. Sì. Compleanno di Pino Scotto allo Zoo a Milano, 60 anni. Minchia. E quella sera la Tsunami presenta un altro libro su di me che si chiama 6-0, fottetevi tutti. Perché ricordiamo che Pino Scotto non ce l'ha con nessuno. Cioè, Pino, tu avresti mai pensato di arrivare a 60 anni? Scherzi. No, io con quello che ho fatto nella vita sinceramente pensavo di ciò vuol dire che Dio mi ama, vuol dire che Dio ama. No, forse il diavolo. Oppure la realtà è, diciamo, l'inverso di quello che ci fa credere la Chiesa, nel senso che chi rimane più a lungo è perché deve scontare una pena più lunga. Forse no, ma il discorso è questo, che io penso che nella vita ognuno può fare il cazzo che vuole, basta non rompere i coglioni agli altri. Beh, e se tu ti comporti così, secondo me vieni premiato. Tu dici? Secondo te il Padre Eterno è Rocco o non è Rocco? È rock. Sei credente tu, Pino? Oh, mi hanno detto che Ringo si è fatto male un'altra volta. Ringo, un messaggio veramente dai tuoi amici dello Zoo di 105. Stai a casa, Ringo. Che non capisci un cazzo di io devo stare zitto che sono caduto il primo giorno, però cazzo. Senti, alcuni dei nostri ascoltatori che incredibilmente non ti conoscono vogliono sapere bene chi è Pino Scotto. Chi è Pino Scotto? Descriviti un attimo, direi un 40 anni di carriera alle spalle. Pino Scotto arriva da un paesino in provincia di Napoli che si chiama Monte di Procida, che è di fronte all'isola di Ischia e Procida, terraferma, da dove sono scappato a 17 anni per fare musica. Sono scappato e sono andato a Los Angeles, sono andato a Napoli, a 40 chilometri. Ah. E lì ho cominciato a fare musica e ho cominciato a mettere insieme delle band. Poi dopo sono venuto a Milano per il militare, ci sono rimasto. È arrivato l'alcol. Quello è arrivato molto presto. Poi hai conosciuto la neve. A Milano. Perché a Napoli non nevica. No, infatti. No, a Napoli c'è quella buona però. Ah sì? Nevica una volta ogni tanto, ma però è buonissima. No, perché arriva tutta lì poi, capito? È quello il discorso. Senti Pino, adesso invece tu ultimamente stai facendo questo programma molto rocco. Su Rock TV? Sì. No, aspetta, stasera tra l'altro... Diciamolo sta cosa che è importante. Ah sì, è nata, voi sapete che c'è il rock and roll di Milano, il rock and roll di Rho, ed è nato un nuovo rock and roll che si chiama Rock and Roll Arena a Romagnano Sesia, in provincia di Novare, dove sono socio anch'io con Davidone. Sì. Ed è nata, è una settimana, 4 giorni, non mi ricordo, mi ho fatto un cazzo, è nato la Rock and Roll Radio sul web, www.rockandrollradio.it. Perfetto. E io tutti i mercoledì dalle 21 alle 22.30 vado lì e... Sei in diretta? Sì, siamo in diretta. La gente, cioè, il programma come funziona? Ti manda le domande? No, siamo io e Simo, chitarrista degli SKV. E mettiamo musica e parliamo e poi mandiamo a fare in culo un po' di gente. Senti Pino, qualcuno ti ha definito la Maionchi uomo. No! Cosa ne pensi? No, per favore, guarda. No. Io farei una cosa, Pino, per conoscerti meglio, per quei pochi che non ti conoscono, io ho montato una specie di best. No, ma a proposito vaffanculo X Factor. Bravo. E amici. Bravo! Ma possibile, io non ci posso credere. Cioè, se me lo date in mano a me, X Factor, io in 10 giorni vi metto lì 20 geni a cantare. Possibile che voi non siete capaci di trovarne uno di stronzi che sa cantare? A questo proposito, tutte imitazioni delle imitazioni. È vero. C'è Gecco a fare il piano bar, andate a fare. C'è Gecco che ti vorrebbe fare una domanda, Pino, sentiamo. Ciao Pino, come ci si sente a essere meno famosi di quelli di Amici? Non ti girano i coglioni? Aia. No, mi girano i coglioni per una cosa sola, che ci sono un sacco di ragazze che si fanno prendere per il culo da questa gente. Questa è una cosa che mi sta sul cazzo, sul serio. Senti Pino, noi abbiamo montato una specie di very best di tutti i video che ci sono su YouTube dove tu mandi a fanculo un sacco di persone. L'ascoltiamo insieme, vai. L'altra sera ho visto un pezzo del Festival Bar, ragazzi, è una vergogna. È una vergogna, ragazzi, è veramente una vergogna, guarda. È una vergogna. C'era un gruppo, non so, mi sembra che sono tedesco, si chiamano Tokyo Hotel. C'era questo che canta, sto froscio del cazzo, non so, brutto come la fame, con dei capelli per aria. C'era un altro col cappellino, col parrucchino, con le treccine, e gli ha dato il premio. Cioè, con una canzoncina scritta a tavolino, non so chi cazzo gliel'ha scritto, no? Che per scrivere le canzoni che vendono oggi basta mettersi a tavolino. Vero. Basta vedere cosa vendo, fanno tutti così, no? Cioè, ma questo è un paese di merda. La popolarità, ragazzi, Michel Hunziker al numero uno. Se questo si trovasse qualcuno che se la tromba 10 volte al giorno, la smetterebbe di romperci il cazzo? Mica, è dappertutto questa qua. Papà di Jim, innanzitutto ti dico pezzo di merda, perché io ho lavorato 34 anni in fabbrica e ho al secondo posto Pippo Baudo, c'è rotto cazzo, Pippo Baudo. Mica, ragazzi, mi ha lui in culo, coglione. Io tutte le mattine alle 8 vado a lavorare, hai capito? E vado a letto alle 7 di mattina, hai capito? Coglione. George Clooney ha detto poverina di Paris Hilton, una come lei a 21 anni con tutto il grande successo che ha. Ma quale successo? Ma chi è questa? Che cazzo fa nella vita? Oltre a sputtanare i miliardi di suo nonno. Quinto posto Laura Chiatti, scusate ragazzi, ma che cazzo è Laura Chiatti? Io non ho più parte idea, che cazzo è Laura Chiatti? Chiatti o Piatti? Chiatti, Laura Chiatti. Ma comunque la colpa è di tutte queste televisioni di merda che fanno vedere questi personaggi, queste merdacce che non sono niente proprio, capito? Su All Music sapete che c'è questa diretta di Radio DJ? Questa. Tutte le mattine, no? Tutte le mattine, 3 ore, non so che cazzo ci sono a fare cosa questi qua, non l'ho capita. Comunque a un certo punto c'è Linus e questo nano qui che si chiama Nicola Gavino, questa faccia da terrone, senza offendere i terroni, perché sono terrone anch'io. Lui è terrone dentro proprio, sto coglione. E lì a un certo punto telefono una da Roma, insomma, a un certo punto hanno cominciato a prendere per il culo Richard Benson, questo personaggio di Roma, no, che fa i concerti che gli tirano le verdure, no? E questo nano qui a un certo punto se ne esce dicendo no, ma a noi ci basta Pino Scott, abbiamo già Pino Scott. Ma come ti permetti, nano? Nano del cazzo, hai capito? Schiavo della musica di merda. Sei il numero uno. Ma com'è finita poi la faida con Nicola Gavino? No, lui mi ha chiamato un giorno, mi ha chiamato e ha detto Pino, io non volevo offenderti. Vabbè, vuoi prendere per il culo ancora? Pure con la telefonata. E quindi cosa rispondi? No, ragazzi, io voglio dire una cosa, sì, però. Sì. Voglio dare un punteggio in più alla Hunziker. Cioè? Perché ha fatto questa associazione per la protezione delle donne maltrattate. Ah. Questo è un punteggio in più per lei. Grande Hunziker, grande gnocco. Quindi la Hunziker è rock? È rock, quindi ritiri gli insulti nei suoi confronti? No, insulti no, perché lei è come tutte le altre, bisognerebbe prendere la caccia in culo tutte quante. Cioè, ecco, dai, Pino, parlando della televisione, a fare cose queste, cosa fanno? Ma parlando della televisione, ma l'avete saputo la storia di Belen, cosa è successo a Cagliari? Della perifrastica, no? No, dove? Mica il presidente del Cagliari l'ha mandato a fare in culo. Perché? No? C'era questa data di Resophonic già a Cagliari, no? Sì. Organizzato da Cellino, presidente del Cagliari. Sì. E c'erano tutti quelli del circolo del golf, il circolo del gente tutta vestinata. Tutta quella brava giusta da prendere a calcio in culo, no? Sì. e a un certo punto c'era Belen che aveva il camerino lì vicino. Questa cosa mi è stata riferita perché io non ce l'avevo, una data mia quella sera. E a un certo punto questo ha cominciato a dire: ma io qua e là. Allora il presidente Cellini è andato lì e gli ha detto: ma che cazzo vuoi? Gli così ha detto, proprio? No, proprio, non so, le parole che mi ha detto a me sono queste. Gli hanno detto quelli, perché lui vive a Miami, sì. Ha detto quelli come te, quelle come te a Miami noi le mettiamo a servire ai tavoli dei bar. E poi gli ha detto pigliati sto Deus Ex Machina e va. L'ha mandato a fare in culo. Beh, in effetti chi cazzo è Belen? Cioè, una domanda che ci siamo posti. Ma il bello che la gente non sa queste prima cosa facevano. Cosa faceva? Non si può dire. No, dillo. No, non si può dire. Allora, io do degli elementi, voi li mettete insieme. Marciapiede, borsetta che ruota e soldi. Guardate voi poi qual è la... Ma c'è una domanda per te, Pino. Sentiamo Jacko. Attenzione. Ciao, Pino. Sì. È vero che farai un album di duetti col tuo amico Povia? Ragazzi, questo chissà che cazzo si è fatto nella vita. Qui c'ha il cervello bruciato. Veramente. C'ha veramente il cervello bruciato. Ma perché ce l'hai con Povia? Ma noi non ce l'ho con Povia. Ce l'ho con tutti gli schiavi della musica di merda. Cioè. Bravo. Lui è uno proprio dei rappresentanti, proprio, capito? Della musica. Cioè, questo è andato a Sanremo due volte. Una volta... Io sta cosa l'ho già detto. Quando lui ha fatto quel test sui bambini io mi sono commosso. No, quello era molto carino in effetti. Mi sono commosso, ho detto vuoi vedere cazzo che è arrivato uno. Boh, minchia, questo invece. No, i piccioni. Poi è arrivato quel piccione, sai che gli ha cagato in testa, no? E gli ha bruciato il cervello. Si vede che dopo il primo pezzo gli ha bruciato il cervello. Senti Pino, tu sei un'autorità rocco nel pianeta del rocco. Ma c'è un'altra autorità che invidia il tuo posto e che lo sta insidiando, che è il nostro Pino Biscotto. Attenzione, attenzione. A questo punto noi abbiamo organizzato un contest per vedere chi ne sa più di voi sui grandi gruppi rocco della scena internazionale. Siamo pronti? Basta che non mi nomini gruppi di merda. Vai fuori che già chi cazzo ti conosce. Oh, guarda lo biscotto, il biscotto te lo do io la prossima volta. Ma adesso mi devi dire che io mi riesco a guardare il buco del culo da solo, mica come te. Io ho fatto la musica con sangue e merda, mica come hai fatto te con la chitarrina della Barbo. Barbo. Allora, signor Pino Biscotto e signor Pino Scotto, qual è il primo gruppo di cui andiamo a parlare? Attenzione, eh. Vai. Lo dico io? Sì. Vediamo se sai qualcosa dei Byron Maymen. Vediamo se li conosci. Dai, che fai quelli che c'hanno quel cantante che mi sta sul cazzo, che si chiama Bruce Dickinson. No, vedi che sei ignorante di merda, che non sai un cazzo. Yeah. Il cantante si chiama Bruce Lee. Ma non è vero! È famosissimo che durante i concerti spezzava i crani alla gente in prima fila. Famosissimo proprio. Un altro personaggio, un'altra domanda, vai. Aspetta, prima. Qual è il simbolo dei Byron Maymen? È la vergine del fuoco di tua sorella. Vedi che sei ignorante, che è un morto tutto secco, che c'è anche sulle magliette. Qua ho vinto io, ricordo. Grande biscotto! Grazie. Senti, sono arrivati un po' di sms. Pino, io ti amo da impazzire, ma certe volte ti vorrei uccidere a suon di ceffoni. Per il resto ti amo. Da Emilia, da Torino. Grande Pino, sono diventato metallaro anche ascoltando i Vanadium e conoscendo il povero Iaco degli Steel Crown. Grande, ciao grande. Ricky da Trieste. Senti, ma tu hai intenzione di rimettere insieme i Vanadium oppure no? Perché tanta gente ma figura, ma se ne parla proprio. Perché no? Ma no, ma cazzo me ne fotte. Cioè io non c'ho neanche dischi a casa dei Vanadium, cioè. Perché no? Passate, scusami se ho passato. Sì, ma Napoli va. Allora, qual è il futuro di Pino Scotto? Il futuro di Pino Scotto è da solista. Pino sì. Scotto, sì, io sì, ho già sì, dato sì. Per le band, ho già sì. Dato. Mi hanno fatto anche delle proposte un po' internazionali ultimamente. Tipo ma la Svizzera. Io ho capito che mettere insieme delle band è un casino. C'è sempre qualcuno che spacca i coglioni. Bravo. Sempre. Pino. Si fa già fatica a mettere insieme due persone, figurati una band. Sentiamo la domanda di Jacko, Pino. Aspetta, Ciao Pino, cosa ne pensi dei Litfiba che si vogliono rimettere insieme? Stanno facendo la fame adesso. Qual è stato il problema principale dei Litfiba secondo te? Ma io sinceramente i cazzi loro non li so. Però come ti dicevo prima, mettere insieme una band è un casino. Ma perché piacevano? I Litfiba fino prima di Giro di Notte lì con le Troie Perse, lì come si chiamava. Prima di quel pezzo lì era una buona band. Ma si sono messi a andare di notte a cercare le mignotte e basta. Fa anche rima tra l'altro. Senti, visto che sei tanto. Che ti sto cominciando ad apprezzare un poco. Sì, vai biscotto. Tu lo sai che Piero Peloso. Sì. C'ha una Piero Pelucci, sì. Sì, Piero Pelucci c'ha una setta. Oltre che avere tutti i peli del corpo che sembra un gorillo, c'ha anche una setta satanica. Ma va? C'ha una setta. Quello sgozzi capretti si ingappetta vergine. Ma non è vero! Quello dice nella villa che c'ha a Firenze, si mangia le costine di maiale e poi si ingappetta le vergine. L'ho visto io con la chitarra in mano e si caga addosso. Ma no! È una bestia di Satana! Senti Pino, tu c'hai, cioè c'hai rimbalzato quando ti abbiamo chiesto un disco da mettere, abbiamo scelto noi per te, va bene? Okay. Un disco degli Aerosmith? Va bene, ti piacciono loro? Presentalo tu, dai, presentalo tu, vai, 15 secondi, vai. Questa è la trombata nell'ascensore. Sì, cioè, bravo, vero, love, love, love in an... in elevator. Ok. Pino Scotto nello Zodi 105. Rock and roll, baby. Rock and roll.